La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici del cinema, un saluto da Franco D'Assisi, buona estate a tutti, questa è La Rosa Purpurea versione estiva, lo avete visto già dall'orario che è diverso dal solito, ma soprattutto la durata sarà diversa dal solito. Per tutta l'estate staremo insieme un'ora in ogni fine settimana, tanto il sabato quanto la domenica, con una ritrovata replica alle 14:30. E quindi insomma andiamo subito a entrare nel vivo della nostra trasmissione, perché materiale almeno per questa settimana ancora in sala ce n'è, e ce n'è anche che arriva dai festival, che arriva dalle convention. Avremo parecchie interviste, parecchi temi molto molto forti. Ci aspetta l'intervista esclusiva a Gabriele Salvatore sul suo prossimo film. Cominceremo a mettere qualche bandierina sul percorso dei film che vedremo nel secondo semestre del 2014. Allora cominciamo però dalle novità in sala, come da tradizione. Ci colleghiamo con Boris Sollazzo, che è con noi al telefono. Ciao Boris. Buongiorno Franco a tutti gli ascoltatori. Allora, la nostra estate, almeno per quanto concerne questo fine settimana, comincia con due nomi importanti da locandina: Adam Sandler e Drew Barrymore. Il film, la commediazza, potremmo dire, usando un termine che forse è anche un genere, la commediazza, è Insieme per forza, e diciamo che subito i protagonisti non si fanno i complimenti. Ma scusa, ti sei pettinato? No, sono uscito così dalla doccia, credo. Tu hai fatto la doccia? Ho fatto la doccia, certo che mi lavo, mio Dio. Io non faccio la doccia da quando siamo arrivati qui. Lo sento e mi piace. Sì, puzza da morire. Sì, puzzi moltissimo. Il tuo alito è terribile. Oh. Il primo incontro tra Lorraine, appunto Drew Barrymore, e Jim, Adam Sandler, è un classico blind date. Lui vedovo con tre figlie, lei divorziata con due, si vedono, ma l'esito è davvero da dimenticare. Ma si rincontreranno più avanti durante una vacanza in Sudafrica, e inizialmente sembrerebbe che le cose non siano cambiate molto dalla prima volta, cioè i due si stanno terribilmente antipatici, ma qualcosa cambierà le carte in tavola. Senti, mi dispiace, so che non sto andando alla grande. Io non esco con una donna ormai da 20 anni. Io non esco con un uomo dall'ultimo anno di liceo. Ti sei sposata al college? Anch'io. Davvero? Sì, non ti senti strana anche tu adesso? Sai, credo che assaggerò uno di questi gamberetti piccanti con questa bella salsa. Eccellente. Oh. Sono piccanti. Perché la salsa è così piccante? Boris, ci sono tutti gli elementi un po' della slapstick comedy americana, la commedia sentimentale che gioca anche un po' sul detto e non detto, un po' della commedia invece un po' più greve. Certo, i protagonisti sono potenzialmente in grado di divertire. Cosa succede nel film? Succede che tutto quello che di buono avevamo detto su Adam Sandler e Drew Barrymore nel passato, perché hanno comunque una carriera che parla per loro, una capacità di essere diversi da tutto quello che le commediazze, io lo farei proprio diventare un genere, ci hanno offerto, soprattutto negli Stati Uniti, dobbiamo rimangiarcelo. Hanno scoperto entrambi che il genere alla Weekend da Bamboccioni, per citare Adam Sandler, uno dei suoi pochi successi commerciali degli ultimi tempi, funzionano, e quindi Sandler, che aveva voluto portare avanti una comicità diversa, qualcosa che fosse con registi e attori che facessero qualcosa di differente, ora invece si accontenta delle commediazze dure e pure. Il problema è che in questo caso Adam Sandler e Drew Barrymore, nella più classica delle storie d'amore che si costruiscono su incontri che non ci dovevano essere, che vanno male e che alla fine però per necessità, per volontà, per casualità tornano e si ritrovano, non mettono nulla di originale, non mettono neanche la loro forma migliore, e quindi si ride poco, male e decisamente nei momenti sbagliati. Se mai per forza, insomma, francamente mi sembra un film da bocciare. Bel lavoro, Larry! Stiamo vincendo! Andiamo, dammi la palla! Tesoro? La palla! E gioco! Coraggio, scatta! Taglia! Taglia! Larry, muoviti! Andiamo, che stai facendo? Larry? Corri! Vai, sfonda! Sbarcati, andiamo! Che stai sfilando, per caso? Che sta succedendo? E allora questa era la clip conclusiva di Insieme per Forza, film che in America ha costato 40 milioni di dollari circa, ne ha incassati 43 e mezzo, insomma è rientrato delle spese all'altezza della fine di giugno, ma il bello per loro ovviamente del mercato dei film americani è che è internazionale, è mondiale, e quindi sicuramente l'operazione, al di là della qualità, avrà avuto un suo senso. Noi andiamo avanti con un'altra novità di questa settimana. Per molti è una necessità, per alcuni può diventare un incubo. Stiamo parlando del babysitting. Dai, brindiamo al compleanno di Frank e agli anni di scuola. Ah, salute. Sì, al signor Blanchard. Il prof d'economia. Sì, al prof di economia. E anche alla bonanza della classe. Ah, oh, sì. La bruna con le tetone. Sì. Ce la siamo fatta tutti. E come, sempre senza pedaggio. Con lei era tutto gratis. Puff! Come si chiamava? Non mi ricordo. Si chiamava... Miriam. Miriam Belanuia! Oh! È mia sorella. È vero? Già. E vado a vedere se il piccolo si è svegliato. Stronzi. E allora, abbiamo detto il babysitting come incubo per qualcuno. Il film è di Nicolas Benamou, film francese per produzione, per ambientazione, per... per il cast, ma non tanto forse per la formula, che vuole essere quella della commedia irriverente che guarda, sbircia, strizza l'occhio molto all'America. Un altro film di una certa gravità, possiamo dire, nei linguaggi e nelle situazioni. Storia di Mark, che improvvisamente si trova senza babysitter per il weekend, decide di affidare il figlio Rémi a un suo dipendente che sembrerebbe una persona molto affidabile. In realtà lui non lo sa, il padre, ma quella sera, proprio quella sera, compie 30 anni e ha intenzione di fare molta baldoria, e insomma il bambino, come dire, sarà dentro questo meccanismo, non totalmente vittima. Boris, questo babysitting è forse l'altra proposta che potenzialmente in questa settimana prova a cercare le alte vette della classifica, con quali risultati? Beh, ci riesce decisamente di più, forse perché si hanno anche meno aspettative, bisogna essere sinceri. Se in Insieme per Forza ci vai quasi per forza perché ci sono Adam Sandler e Drew Barrymore, qui non hai quel carico di speranze, sai che vai a vedere fin dal titolo un film in teoria per famiglie, dovrebbe essere per famiglie, così lo potresti esprimere. Poi io sconsiglio di farlo vedere alle famiglie tutte intere, direi, perché potrebbero insomma farsi venire strane idee o decidere strani coprifuoco. Il motivo è facile, perché è una sorta di notte da leoni. Il babysitter c'è, il bambino c'è, tutto nasce quando i genitori scoprono la casa vuota, non ci sono più nessuno dei due, trovano solo una documentazione video di quella che è stata la notte, e noi con loro vediamo il film. Vi presento l'agente Caillou, incaricato di creare il profilo psicologico dei criminali. Lei crede che il babysitter possa aver rapito il nostro figlio? Difficile dirlo al momento. Sappiamo solo che non ha mai avuto a che fare con la polizia e che ha la fedina penale pulita. Ma sappiamo anche che i peggiori psicopatici sono spesso molto discreti. Che cosa intende per i peggiori psicopatici? Assassini dei bambini? No, non è detto. Possono essere anche degli stupratori o dei trafficanti d'organi. Con quelli restano vivi. Comunque, non siamo troppo ottimisti, potrebbe portare sfortuna. C'è stata una lite con il babysitter? No. Commissario, questa era sotto il divano. Forse è un indizio. È vostra? No. Faccia vedere. Potrebbe esserci uno snuff movie. Che cos'è uno snuff movie? Scene di omicidi filmate con apparecchi amatoriali. Non ne ho mai visto uno vero. Vediamo se ho ragione. Dai, guardiamolo. Questa è la clip, Boris. Alla fine il compito del film è assolto. Qual è la tua valutazione? Non c'è nulla di nuovo neanche qua, né nei ritmi né nelle battute, e c'è insomma una recitazione anche piuttosto scolastica, però tutto è più o meno al posto giusto e si ride abbastanza spesso. Se si vuole un prodotto che non ti faccia impegnare troppo né come spettatore né come autore, diciamo che babysitting è l'ideale, fa proprio la sua funzione, cioè fa da babysitter allo spettatore che vuole passare due ore divertendosi. A che piano vai, piccolo? Guardi Scream 4? E allora che ti frega? Se non hai amici vai su Facebook. Che hai da guardarmi così? Che sono la tua donna? Va a farti un giro. Sfigato. Ehi, L'assassina è la cugina di Sidney. Ciao, merdina. E allora vedremo se questi due film, queste due commedie riusciranno a, non dico scalzare dal primo posto, ma insomma inserirsi in alto nella classifica degli incassi del weekend, che nel weekend scorso ha fatto segnare una notevole flessione. In testa c'è sempre Maleficent per quanto riguarda l'Italia, ormai è arrivato a 12 milioni e mezzo di euro di incasso, ma nello scorso weekend ne ha fatti 440.000, che non è propriamente una prestazione, diciamo, da alta stagione. Figuriamoci gli altri, secondo posto per Tutte contro lui di Nick Cassavetes, terzo per Big Wedding, vedete, sempre commedie, anche corali, e quarto posto per La città incantata, il reboot del film di Hayao Miyazaki. Al quinto posto Jersey Boys, che non è partito fortissimo, ma in molte città sta andando ancora piuttosto bene, quindi il consiglio è andatelo a vedere prima che poi venga smontato, perché sarebbe davvero un peccato non godersi soprattutto l'aspetto musicale di questo film nello splendore del grande schermo. Sono ancora 190 comunque le sale che lo programmano in tutta Italia. Diamo un'occhiata a quello che succede invece in America per quanto concerne la classifica, perché al primo posto per quanto concerne gli Stati Uniti c'è Transformers 4, che sta per arrivare anche in Italia e quindi sarà sicuramente il blockbuster di questa estate. 100 milioni di dollari incassati nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti. Al secondo posto 22 Jump Street, che riporta Jonah Hill e Channing Tatum nei panni dei due poliziotti per caso, diciamo così, dell'antidroga, che già avevano ricoperto quando erano due attori semi sconosciuti qualche anno fa nel primo capitolo di questa mini saga e che adesso invece tornano da vere e proprie star. Terzo posto in America per Dragon Trainer 2, anche questo un film che sta per arrivare sugli schermi italiani. La rosa purpurea. Che succede? Che cos'è? Viene da lì. Viene da lì. È proprio davanti a voi. Che cos'hai, tesoro? Perché sei arrabbiato? Avvicinati, Brian. Avvicinati a lei. Non vuoi lasciare questa casa? Vuoi che ti prenda in braccio? Non avere paura. E allora, ancora insieme alla Rosa Purpurea, quella che avete sentito era una clip dal film Le origini del male. L'estate è tradizionalmente il regno degli horror. Arriva questa stagione e le case di distribuzione, come dire, avevano magari in magazzino qualche horror da buttare fuori in listino, ed ecco che è il momento giusto, il suo pubblico c'è sempre. Il genere è sicuramente molto vivace sotto il profilo produttivo, poi sotto quello qualitativo mica sempre. Le origini del male di John Pogue, storia ambientata a Oxford nel 1974, dove un professore tenta un esperimento mai visto prima, quello di guarire, fra virgolette, una ragazza che ha manie suicide, diagnosticata la schizofrenia, ma soprattutto si sente posseduta, guarirla attraverso una particolare tecnica che punta sull'energia telecinetica. Insomma, questo è l'esperimento che viene tentato. Ovviamente viene dato incarico a un ragazzo di filmare tutto, e quindi ovviamente noi avremo il resoconto di quello che succede in questo film, Le origini del male. Abbiamo detto, Boris, l'horror re dell'estate come genere cinematografico, però non sempre la qualità aiuta. In questo caso cosa abbiamo raggiunto? In questo caso, diciamo che, visto che siamo in università, torniamo alle nostre reminiscenze del passato e non userei il bocciato del promosso, ma userei il rimandato. Il problema è che questo tipo di horror, appunto, in cui il pretesto per cui arriva a noi è la presenza di una telecamera, noi l'abbiamo stravisto, è qualcosa che conosciamo sia come testo che come pretesto, appunto. Verrebbe da dire che questo genere horror, senza che avessero inventato le piccole videocamere, non potrebbe esistere in nessun modo, o neanche le telecamere, perché appunto senza la documentazione visiva che dà l'illusione della realtà si perderebbe tutto, e invece bisognerebbe anche lavorare sull'atmosfera, sugli attori. Questo è il film di uno sceneggiatore, John Pogg, che aveva esordito la regia con il trascurabile Quarantena 2, e che si vede che è un mestierante, perché più o meno fa tutte le cose giuste, mette tutte le cose a posto, non sbaglia molto, prende un filone abbastanza sicuro, che è quello della possessione demoniaca, trattata con tanti belli marchingegni tecnici che fanno sempre una certa scena, in un contesto ambientale molto particolare, anche elegante. E questo fa sì che tutto è estremamente interessante e colpisce. Il punto però è che non si va mai oltre quello che si è già visto, il punto è che non si viene mai sorpresi, ed essendo un film per appassionati, l'horror, gli appassionati non ci cascano. David, perché il signor Gregor sta facendo queste cose? È malvagio. Come lo sono io? Il signor Gregor è solo un'invenzione. Lo sta creando la tua mente. Puoi sbarazzarti di lui e io posso aiutarti. E allora, questo era Le origini del male, un altro dei film in sala in questo fine settimana, così come Rio 2096, una storia d'amore e furia. Questo recita il titolo e il sottotitolo di questo film, che non è assolutamente da confondere con il Rio, quello dei pappagalli, il film d'animazione che ricorderete di qualche anno fa. Qui invece siamo sempre nel cinema anche animato, ma il film racconta la vita di un uomo, di un indios, di cui si dice che non sia mai morto e che sia stato prescelto dagli dei per una missione davvero speciale. State entrando in una delle città più sicure al mondo, monitorata da milizie private. Benvenuti a Rio de Janeiro. Eccolo, eccolo, si sta avvicinando. È quello dei mondiali. Esame. Scansione. Acqua rubata. Fine della corsa, ladruncolo. Boris, allora, questo Rio 2096, storia d'amore e furia di Luis Bolognesi, raccontaci un po'. Ecco, un altro sceneggiatore che fa il regista da più tempo, ovviamente, ed è sicuramente il film della settimana. Si cerca di raccontare una storia impossibile, la storia di un uomo eletto, di un eroe che deve vivere per secoli e secoli e salvare di fatto il pianeta. Si parla di Brasile ed è molto suggestivo a pensarlo adesso, che è protagonista di questi mondiali, ed è riuscito, un po' Avatar, un po' Via col vento, un po' cyberpunk, c'è cioè un po' di tutto, e la forza di Bolognesi è proprio questa, scegliere un genere che gli permette tutti gli effetti speciali e tutti i riferimenti che il live action non gli permetterebbe. All'inizio lui l'aveva pensato come live action, però la verità è che guardando il film l'animazione non è affatto un ripiego, ma è l'unico linguaggio che può permettersi questa ampiezza di visione e anche di sentimenti ed emotiva. Funziona tutto, è una bella storia in cui il protagonista tra l'altro cambia costantemente insieme alla location, in cui il linguaggio cambia costantemente insieme al tempo che passa e in cui anche lo sguardo dello spettatore cambia, passa da ingenuo a strutturato, come giustamente si confà un viaggio che deve andare dal 1500 fino appunto al 2096. Davvero un film interessante, una delle cose di animazione più belle che abbiamo visto negli ultimi mesi. È arrivato il momento di giocare insieme, di cominciare con la prima delle due tracce misteriose di un film che dovrete indovinare per provare a vincere un'edizione davvero speciale. Ma dov'è che non ci troveranno? Non Non lo so, magari sott'acqua. E se andassimo sott'acqua? Ottima idea, baby! E allora, se avete già capito di che film si tratta, provate a vincere questa edizione in Blu-ray davvero speciale scrivendo il titolo del film e il vostro indirizzo a larosapurpurea@radio24.it. larosapurpurea@radio24.it. Con il vostro indirizzo, appunto, per provare a ricevere una delle due copie in palio di questo film, di cui più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. C'è ancora un film di cui parlare con Boris Sollazzo, si intitola un po' programmaticamente Come fare soldi vendendo droga. Ascoltiamo questa clip. I don't think it's as much a question of drugs and it's about freedom. I'm just horrified by the way that we think of people because of the choice of substance that they put in their bodies to alter their perception. Abbiamo il clip in lingua originale, ci sono solo quelle, un documentario che però ha avuto un enorme impatto sugli Stati Uniti, perché racconta la quotidianità del traffico di droga negli USA e racconta anche quanto siano state controproducenti le leggi proibizioniste che dovrebbero combatterlo. Nel cast, fra virgolette, perché si tratta appunto di un documentario, però le testimonianze di Woody Harrelson, di Susan Sarandon, di Eminem, di 50 Cent, famosi rapper ma anche attori, musicisti, che raccontano un po' il loro approccio con questa tematica. Boris, un film che arriva anche in Italia in una dozzina di sale, quindi abbastanza reperibile, quantomeno nelle grandi città. È un documentario che ancora una volta ci mostra come negli Stati Uniti anche questo genere, appunto, questo modo di fare cinema documentario molto spesso sia effettivamente vincente. Assolutamente sì, stiamo finendo in crescendo, nel senso che gli ultimi due film sono sicuramente i migliori della settimana, e questo in particolare nell'ambito dei documentari ha una forza e una potenza non trascurabile. Stiano tranquilli i genitori, non è un tutorial, cioè non insegna sul serio a come fare soldi vendendo droga, ma piuttosto vuole raccontare la filiera distributiva, produttiva, anche legislativa ed emotiva che porta al consumo di droga, alla vendita di droga, all'acquisto di droga e anche a come la droga sia di fatto la linfa vitale di tutta quell'economia criminale che poi magari si ripulisce e mette il colletto bianco. La cosa più interessante sono proprio queste testimonianze che normalmente potrebbero essere considerate semplicemente un modo per riempire il cast, per riempire di nomi la casella del cast del film, e invece danno un contributo molto importante anche per quanto riguarda il conoscere la tossicodipendenza. Molti di loro non nascondono la loro tossicodipendenza di varia origine, di varia durata e in alcuni casi ancora in corso, e questo dà ancora più forza perché è un documentario vivo, non si parla di qualcosa che è passato ma si parla di qualcosa che esiste nello stesso momento in cui lo spettatore lo guarda. Matthew Cook ci mette una regia da una parte molto scolastica, perché con tutte quelle interviste non può fare chissà quali evoluzioni registiche, ma dall'altra parte originale nell'ambito dei documentari che hanno tante testimonianze, riesce comunque a creare un ritmo e un interesse molto forte, quindi assolutamente da promuovere in tutti i sensi, non solo da promuovere nel senso scolastico, ma proprio da promuovere, da fare in modo che vada in giro, perché a mio parere la conoscenza di certi meccanismi fa passare anche la peggiore delle tentazioni. Il sapere di essere sfruttati da una multinazionale del male forse potrebbe dare persino più fastidio dei pericoli alla salute che può dare un certo tipo di consumo. E allora, grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. La Rosa Purpurea. E riprendiamo la Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Come abbiamo detto, ci aspetta l'intervista a Gabriele Salvatores, realizzata nell'ambito di Cinele, giornate professionali del cinema, versione estiva, l'appuntamento che si è appena svolto a Riccione per raccontare, anticipare tutto quello che vedremo nei prossimi sei mesi di stagione cinematografica. Tanti gli ospiti italiani, registi, attori che sono venuti per raccontare i loro prossimi progetti, e fra gli altri, sugli altri forse addirittura Gabriele Salvatore, premio Oscar, che è venuto a raccontare agli esercenti che cosa sarà il suo nuovo lavoro. Si intitola Il ragazzo invisibile e per la prima volta, almeno in tempi recenti, il cinema italiano si cimenta con il tema dei supereroi. Una vera e propria storia di un ragazzino supereroe, un ragazzino con dei poteri straordinari che si chiama Michele, oggetto di bullismo a scuola, le ragazze non se lo filano più di tanto, scoprirà però di poter essere appunto invisibile. La sua vita da quel momento in poi ovviamente cambierà. Ne abbiamo parlato con Gabriele Salvatore, abbiamo parlato di un progetto che è multimediale, un progetto che prevede anche l'uscita a fumetti di questa storia. E allora, Gabriele Salvatore alla Rosa Purpurea per raccontare Il ragazzo invisibile. Allora, dice: figurati se Salvatore fa un film sui supereroi. E invece, tac. No, beh, interessante, però poi chissà perché in realtà, se ci pensi, abbiamo fatto Nirvana nel 96, che era già un film di fantascienza strano, poi qualche intrusione nei noir, nei gialli, eccetera, quindi i generi mi sono sempre piaciuti. Io credo che quando non perdi il tuo sguardo sulla realtà, quando hai qualcosa da dire sulla vita, su quello che stai condividendo con gli altri, anche se entri nello schema di un genere, non perdi l'anima, anzi il genere ti dà degli argini, ti dà delle definizioni, quindi ti aiuta, secondo me. Cosa sono stati, cos'erano, cosa sono i supereroi per Gabriele Salvatore? Ma è il lato infantile, che se vuoi, o adolescenziale, che c'è in me, l'idea che qualcuno abbia un potere diverso da quello degli altri è una cosa molto affascinante. Andando avanti a vivere scopro che in realtà i veri supereroi sono proprio quelli che, come il protagonista del film, poi si ritrovano a dover affrontare l'avventura più difficile del mondo, cioè la vita, con i loro poteri, che possono essere più o meno super, ma che sono normali. Questi, gli eroi, sono proprio quelli che ce la fanno a tirare avanti, a crescere una famiglia, a crescere bene dei figli, a fare dei figli non dimenticandosene. Non è banalità questa, lo penso davvero che la quotidianità sia la cosa più difficile da vivere, ed è forse per questo, ti confesserò, che io mi rifugio spesso nella fantasia, perché è difficile da affrontare la realtà. Senti, nell'immaginario che abbiamo visto c'è molto del supereroe americano, le scritte, le tute, molto lavorate, molto molto giuste. Come si è formato questo immaginario? Come hai deciso di vestire il tuo supereroe con un abito che facesse risuonare nelle orecchie e negli occhi i supereroi americani classici? Sì, l'idea è proprio questa, come si diceva prima, dei generi. Noi, i generi hanno dei codici e quindi è interessante studiarli. Se ci pensi, non è niente di nuovo. Ti dico l'Odissea, cioè il primo, è un magnifico film di supereroi, è un fantasy fantastico. È diventato quello dei supereroi un mito, quindi che si rifà dei miti antichi, moderno, che il cinema americano ha saputo creare, farci vedere, e il problema era misurarsi con questo, quindi rispettare i nodi del genere, i limiti del genere, ma cercando di mettergli qualcosa di diverso. Allora ci siamo studiati tutte le tute, i travestimenti, le cose eccetera, e alla fine è venuta fuori questa tuta che, se ci pensi, ti ricorda il personaggio di un fumetto italiano che poi è Diabolik. È una tuta nera che ricopre interamente il volto fino a metà, e tutto il corpo. Abbiamo cercato di non renderla ridicola, perché è un attimo che queste cose diventano ridicole, e devo dire credo che ci siamo riusciti. Abbiamo anche usato materiali tecnici abbastanza avanzati, cose che vengono usate in situazioni estreme, tipo alta montagna oppure nello spazio. Questo ha dato la possibilità di rendere credibile il tutto. Ecco, guardando le clip, via via mi sono venuti davanti agli occhi i pensieri e immagini di Chevy Chase, Uomo Invisibile, poi degli incredibili Disney, no? Così normali. normali, così quotidiani, oppure degli Avengers nel loro prequel, no? Questi ragazzi che hanno dei super poteri. Ecco, qual è il tuo rapporto con questo cinema contemporaneo di supereroi? A me mi piace, devo dire, proprio questi che hai citato sono film, così come anche il primo Uomo Ragno, secondo me era molto bello la prima parte, perché è questo un po' il trucco, quando la fantasia, cioè la magia, la rendi credibile e riconoscibile dagli esseri umani, dalla gente che vive come noi tutti i giorni, la quotidianità, allora lì riesci a toccare veramente qualcosa di interessante. Guarda, una ragazzina di 10 anni che ha visto il film, compilando il questionario che c'era alla fine, ha detto: il film mi è piaciuto molto perché è magico, però ci credo. Questo è fantastico, se siamo riusciti a fare questo. È bello anche il fil rouge che lega questo film al resto della tua produzione, cioè il salto della linea d'ombra, no? Solo che mi veniva in mente che prima nei tournée nei Marrakesh questa cosa avveniva a 45-50 anni, quasi che fino a lì si fosse vissuta un'eterna infanzia, no? E qui invece negli ultimi film avviene sempre prima, cioè sono i nostri bambini che stanno diventando grandi troppo presto. Ahimè sì, credo di sì, nel senso che non so se troppo presto, sicuramente prima di noi, nel senso che le informazioni oggi, se tu pensi, la rete ti fornisce una quantità di informazioni orizzontali, questo semmai è il problema, ma insomma è un altro discorso, la quantità di informazioni e di notizie che noi non avevamo assolutamente, quindi è vero che loro si trovano di fronte a dei problemi o delle scelte che noi magari abbiamo fatto più avanti, ma sono molto contento che citi La linea d'ombra, non solo perché è uno dei miei racconti preferiti, uno dei miei autori preferiti, ma proprio perché questo è il tema del film, no? La linea d'ombra racconta di un gruppo di ragazzi stanno giocando a pallone in un prato, a un certo punto la palla rotola fuori in un bosco, allora uno va a prenderla e si accorge di questo mondo pieno di ombre, umido, misterioso, curioso, e sì, trova la palla, torna a giocare, ma non ha più la spensieratezza di prima, sa che esiste un altro lato della la zona d'ombra, e alla fine il nostro protagonista dovrà scegliere se rimanere un supereroe, cioè appunto un eterno Peter Pan, perché no, non ho niente contro questo, ma oppure diventare adulto, che credo che sia invece più difficile e più importante. E allora Gabriele Salvatore sta alla Rosa Purpurea, veramente la grande anticipazione del Ragazzo Invisibile in sala dall'11 dicembre 2014. Avremo modo di ritornarci sopra quando sarà il momento. Invece adesso è il momento di giocare con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Punto 3. Fa ginnastica, salti energizzanti. 1, 2, 3, sono troppo pompato! Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray in edizione davvero speciale di questo film che sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo arrivati alla quarta e conclusiva parte della nostra trasmissione. È arrivato il momento di parlare di Charlie Chaplin, di un gigante della storia del cinema mondiale, per molti il più grande di tutti i tempi, il padre di tanti modi di fare cinema, ma sempre unico. Si sono celebrati i 100 anni della sua maschera principale, quella di Charlot, e Bologna, con il suo splendido festival del cinema ritrovato, che si è svolto proprio verso la fine di giugno, a cavallo dalla fine di giugno e inizio di luglio, Bologna gli ha riservato un omaggio straordinario. Come sapete, la Cineteca di Bologna è quella a cui la famiglia Chaplin ha affidato tutta l'opera di Charlie Chaplin per i restauri, per la gestione delle pellicole originali, e quindi è davvero un fiore all'occhiello per la Cineteca bolognese. Sono arrivati uomini di cinema del contemporaneo di grandissimo livello: Michel Aznavicius, premio Oscar per The Artist, Mike Leigh, Alexander Payne, il regista di Nebraska, il figlio di Charlie Chaplin, insomma davvero un parterre de rois di tutto rispetto per celebrare a Bologna Charlie Chaplin e i 100 anni di Charlot. E c'era per noi Chiara Pizzimenti. Di Diceva Federico Fellini che per quelli della sua generazione parlare di Chaplin era come parlare di Adamo, il padre di tutti. Alexander Payne, il regista di Nebraska, ha citato Woody Allen per definire l'importanza di Chaplin. È come parlare di Dio, dice Allen, solo che a Charlot. Io ci credo. Due illustri punti di vista su Charlie Chaplin, celebrato dalla Cineteca di Bologna, che raccoglie, restaura e cura per conto della famiglia l'archivio dell'attore e regista. L'occasione è un anniversario, meglio un centenario. Nel febbraio del 1914 appariva per la prima volta sul grande schermo Charlot, il vagabondo con i baffi, la bombetta e il bastone, una delle prime icone della storia del cinema, un personaggio rimasto immortale. Il cortometraggio era Kid Auto Races at Venice, in italiano Charlot si distingue, una gara di auto di cartone guidate da bambini. Come tutta l'opera di Chaplin, porta insieme risate e lacrime. È successo agli spettatori delle proiezioni bolognesi, è accaduto a Kevin Brownlow, documentarista premio Oscar che si dedica da sempre al cinema delle origini. When I saw as a child they reissued Gold Rush. Quando da bambino ho visto La febbre dell'oro nella riedizione del 1942, non quella del 1925, ero in un mare di lacrime. Quando ho fatto vedere Il Monello a mia figlia di 8 anni, anche lei era in lacrime. Le ho chiesto se non avesse trovato il lato divertente del film e lei ha risposto: quale parte divertente? La cosa più difficile da fare in celluloide, che è fondamentalmente un prodotto industriale, è trasmettere emozioni al pubblico. Chaplin sapeva come farlo meglio di chiunque altro. A celebrare Charlot sono arrivati Michel Hazanavicius, premio Oscar per Il muto, The Artist, Mike Leigh, l'autore di Segreti e bugie e Il segreto di Vera Drake, e Alexander Payne insieme a due dei figli di Chaplin, Michael e Victoria, e Claire Boom, protagonista di Luci della ribalta. Una serie di omaggi per sottolineare l'originalità di un mito cinematografico, la sua longevità e ancora la capacità di stupire. Difficile non usare la parola genio per il padre di Charlot. Il biografo di Chaplin, David Robinson. Yes, he was a genius. I mean, to me... Certamente era un genio. Da una parte aveva un'incredibile capacità di comprendere la condizione umana. Dall'altra parte aveva questa grande abilità come attore, come comico, come interprete drammatico. Era anche estremamente capace di trasmettere quello che sentiva, di comunicare con il pubblico. Noi non vediamo solamente quello che fa, ma anche quello che sente e pensa. È una grande abilità come attore quella di poter far comprendere quello che c'è dietro. And his acting roles which he understands. Racconta il mondo e gli uomini, dunque, Chaplin, non solo quelli del suo tempo, un tempo di guerra, visto che il 1914 è anche l'anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Da appena un anno Chaplin era negli Stati Uniti, dopo l'infanzia di povertà e la vita in tournée nelle compagnie teatrali inglesi. Ancora doveva girare i suoi capolavori, Il Monello, La febbre dell'oro, Luci della città, Tempi moderni. Tutti nati seguendo l'ispirazione e il metodo che erano già però nelle prime semplici comiche. Così lo racconta Kevin Brownlow, autore del documentario Chaplin sconosciuto. In the film industry, everything is industrialized and you're expected to make a film 8 weeks for a feature really fast. Nel mondo del cinema tutto è industrializzato. Ci si aspetta che un film venga girato in 8 settimane, velocemente. La cosa peggiore che si può dire di qualcuno in questo campo è che non sa cosa sta facendo. La cosa meravigliosa è che Charlie Chaplin non sapeva cosa stava facendo. Aveva un'idea per una storia e andava avanti con le riprese fino a quando non diventava divertente. Lo ha sempre tenuto segreto. Si è scoperto solo quando abbiamo trovato tutte le pellicole del girato. Faceva anche 60 ciak per ogni scena. Questo succedeva per le commedie di maggior successo che ha fatto e non sapeva cosa stava facendo. L'emigrante, nei suoi primi pensieri, doveva essere una commedia ambientata a Parigi nella seconda metà dell'Ottocento ed è diventata una storia di immigrazione dall'Europa. Incredibile. E E allora la nostra Chiara Pizzimetti ci ha raccontato i 100 anni di Charlot e l'omaggio di Bologna a Charlie Chaplin. È il momento di parlare di cinema da vedere in casa o da rivedere con televisione e DVD. E a proposito di game, di DVD, noi andiamo a svelare quello che è stato il nostro gioco della scorsa settimana. Signor Woodruff, che cosa sta facendo? La gente sta morendo e io vi romperò i coglioni finché non sarò sottoterra. E allora, si trattava di Dallas Buyers Club, il film, uno dei film che hanno animato la notte degli Oscar di quest'anno e che adesso arriva in un video anche in Italia. Fra quelli che hanno partecipato, tanti che hanno partecipato e indovinato il film, i più veloci sono stati Simone Bonaccini di Marmirolo, provincia di Reggio Emilia, e Marisa Simani di Ferrara. Quindi l'Emilia Romagna al completo fa l'amplen in questa nostra in questo nostro game, e vinceranno appunto Dallas Buyers Club, che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV. Siamo in collegamento con la redazione, con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo nel 1985 e a un macho texano tutto ormoni, alcol e rodeo viene riscontrato l'AIDS. Decide di lottare anche per gli altri, importando dal Messico farmaci illegali negli Stati Uniti. È un film questo da avere assolutamente nella propria videoteca, soprattutto per le gigantesche interpretazioni primate con l'Oscar di uno Jared Leto in Travestì e di un Matthew McConaughey in scheletrito, in un'altra performance strepitosa dopo il cameo fulminante in Wolf of Wall Street e la serie True Detective. È un film da avere, ma Blu-ray che purtroppo non si può che non criticare, visto che il formato originale in scala 2.35:1 è stato trasformato in un 16:9 e sostanzialmente, per eliminare le bande nere, si è come zoomata l'immagine perdendo definizione e tagliando lati del quadro, tutt'altro che alta definizione, quindi comunque un film da avere nella propria videoteca. Speriamo che si metta a riparo a questa pecca, perché effettivamente quella del taglio delle proporzioni è come sfregiare una tela non volontariamente, diciamo, se non si è Fontana, tutto sommato la cosa non andrebbe fatta. Allora, questo per quanto riguarda il game della scorsa settimana, Dallas Buyers Club. Andiamo invece a parlare di un'altra uscita, sempre da quel periodo, da quel momento della stagione, arrivava sugli schermi Dietro i candelabri con un grandissimo Michael Douglas, che adesso è in edizione on video. Sì, storia vera del pianista Liberace, folle eccentrico showman, virtuoso barocco e kitsch, e della sua storia d'amore omosessuale con Scott Orson. È un film biografico che sembra tratti un musical, a tratti un horror, su un'icona del passato che ha molto da dire anche al presente, alla società attuale, non solo quella dello spettacolo. È uno dei migliori film di Steven Soderbergh, girato per la TV HBO. E un altro film come Dallas Buyers Club, con due straordinari protagonisti, Michael Douglas, come dicevi, che preferiamo qui che nel bolso mai così vicini, che sta per uscire nelle sale italiane, e Matt Damon. Anche qui un Blu-ray molto scarno, ma anche questo è un film che è da avere nella propria biblioteca. Assolutamente, con tutta la sua eccentricità, con tutta il suo glamour, il Liberace di Michael Douglas, è davvero indimenticabile. Voglio aggiungere un'altra cosa in tema di on video, un'iniziativa molto interessante e divertente che la 20th Century Fox lancia per l'uscita in on video di Storia di una ladra di libri. È stato uno dei film più annunciati, non ha avuto un grandissimo successo in Italia, ma forse insomma anche oltre i suoi demeriti. Adesso il film arriva in on video, c'è una settimana intera dedicata al book crossing, come sapete, il fatto di lasciare un libro in un certo posto e fare che chiunque passi lo prenda, magari ne lascia un altro in un altro posto, ed è una catena assolutamente virtuosa. E allora dal 7 al 13 luglio tutti gli appassionati potranno lasciare un libro in un posto che vorranno della loro città, fotografarlo e condividerlo su Twitter con l'hashtag ladri di libri, cancelletto ladri di libri. Se inseriranno anche il nome della loro città, altre persone potranno sapere dove questo film, questo libro è stato lasciato, e a loro volta faranno andare avanti la catena. È una cosa molto molto bella e interessante, che appunto riguarda l'uscita in un video di Storia di una ladra di libri per 20th Century Fox. Giulio, torniamo a noi, perché ci sono anche i film da vedere in televisione. L'estate porta tempo a disposizione, magari la sera uno per rilassarsi fa anche un po' più tardi, può vedere qualcosa anche in altri orari. Noi abbiamo scelto due film, anzi un film e un ciclo. Cominciamo dal film, così lo esauriamo prima. I Tre Giorni del Condor è sempre un super classico, va in onda su Iris martedì 8 luglio alle 21. Un film espressivo e autunnale fortemente voluto dal regista Pollack e dal protagonista Robert Redford è un thriller spionistico che è soprattutto una parabola sull'uomo moderno schiacciato da ingranaggi e logiche che gli sfuggono e costretto a lottare contro l'irrazionale logica del potere. Si respira l'aria di quel periodo, l'aria del Watergate, ma soprattutto si respira grandissimo cinema. E questo per quel che concerne allora i tre giorni del Condor in onda su Iris alle 21 di martedì 8 luglio. Dicevamo un film e un ciclo, perché durante la prossima settimana ci sarà un grande omaggio a un enorme regista per la sua epoca e anche per le epoche a venire, ovvero Jean-Pierre Melville. Sempre benemerito fuori orario, propone nelle notti di venerdì e sabato su Rai 3 sei film di Jean-Pierre Melville, regista famoso per i suoi polar, per poi i neri polizieschi stilizzati, pioniere del cinema moderno, esempio fondamentale per la Nouvelle Vague, ma anche amante del cinema classico. Si parte il venerdì all'1:20 con tre film di impianto storico, Il silenzio del mare, esordio incentrato su un militare tedesco idealista, si continua con il film Scandalo, I ragazzi terribili, e si conclude la nottata con le lacerazioni fofiche di Léon Morin, Prete. Il giorno dopo invece tre meravigliosi polare con cui Melville riscrive il noir americano in Francia, e si parte dall'1:05 con Le Iene del quarto potere, Lo spione, e il finale terminale Notte sulla città, che è il suo ultimo film, è una sorta di teorema definitivo che racchiude tutti gli stereotipi del genere. E insomma, tanto cinema, tanto buon cinema, come sempre da fuori orario nel prossimo fine settimana. Grazie a Giulio San Giorgio e gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati così alla conclusione della nostra trasmissione, grazie per averci seguito. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, come sempre, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e restate con noi tutta la settimana, ci risentiamo la prossima settimana, ancora con anticipazioni sul resto della stagione, grandi interviste che popoleranno l'estate della Rosa Purpurea. Grazie a Lorenzo Nespoli che ci ha dato una mano in redazione, a Carmelo Lauricella in regia, un saluto da Franco D'Assisi.